Da parte di Rock Legends, come sempre Gianluca al microfono, e lo ricordo, stasera ospite Julie delle Hypnol Witch. Con voi e con lei ascolteremo sei brani del CD Once Upon a Time, come il primo che è andato in onda. Titolo? Il titolo è Rescue. La vostra esperienza durante la registrazione, quali idee musicali che hanno dato vita a questo CD, impreziosito da una vostra visita ad Abbey Road? Esatto, allora sì, abbiamo registrato in analogico in uno studio modenese, Bombanella Studio, poi è stato mixato un po' a Roma da Livio Magnini insieme a Livio Magnini, Blue Vertigo e Bloody Beetroots adesso e Mono FFD e invece il mastering è stato fatto a Abbey Road Studios Londra da Sean McGee, che è un bravissimo ingegnere del suono, mastering engineer, che ha lavorato con Beatles, Rolling Stones, Placebo, e quindi insomma una bellissima esperienza. Poi puoi immaginare, per noi è il tempio della musica rock per eccellenza, per loro, per loro era un giorno lavorativo, un lunedì lavorativo, entri, non puoi neanche fare le foto, per noi abbiamo un bel filmattino spammato su YouTube che, se volete andarvi a vedere, farvi quattro risate, insomma una roba simpatica. Però sì, ecco, entrare a Abbey Road, vedere tutte queste foto, pensarla chi è stato lì dentro, noi non siamo nessuno, però insomma è stata veramente una bella esperienza. La prossima canzone per i nostri ascoltatori. Allora, la prossima è Karma Love. You and me. In studio ancora con Giulia delle Roy Pnoi Witch. Capitolo recensioni musicali, quali le più lusinghiere e cosa dicono del vostro album, in particolar modo cosa è stato puntualizzato? Allora sì, molte recensioni stanno uscendo perché comunque il disco è uscito da qualche settimana, quindi però diciamo che le impressioni sono buone, insomma si sente una buona produzione alle spalle, per questo ringrazio anche chi ci ha aiutato e quindi insomma il sound è piaciuto. Poi ovviamente c'è anche chi dice no guarda non è niente di che, però noi accettiamo tutto perché giustamente certo, questa è la nostra arte, ci piace divertirci, ci piace far divertire, poi se qualcuno invece non apprezza lo stesso. Prossima canzone. Allora, la prossima canzone vi consiglio di ascoltarla molto bene perché parla di tutti i gruppi rock femminile, si chiama Do They Really. Torneremo a breve per la quarta parte di Rock Legends con Giulia delle Rap New Witch, rimanete ancora su Radio RCS.